La posizione di Amnesty è stata espressa molto chiaramente proprio la scorsa settimana nel corso di un incontro che ha visto i funzionari dei governi incontrare i rappresentanti delle organizzazioni non governative europee, tra cui quelli di Amnesty International. Quello che si è denunciato è che anche in Europa i controlli sui trasferimenti di armi sono assolutamente insufficienti, in particolare il codice di condotta, che non ha nessun valore vincolante giuridico, è uno strumento ancora insufficiente per controllare che armi europee non finiscano in mano di stati che le possano utilizzare per violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale. E vorrei ricordare che gli stati europei sono responsabili di oltre un terzo delle esportazioni mondiali di armi. In particolare in questo contesto è anche importante il ruolo dell'Italia. Basti dare un dato che tra il 2002 e il 2003, in conseguenza probabilmente della maggiore richiesta delle armi che è conseguita alla guerra al terrorismo dichiarata dagli Stati Uniti, le esportazioni italiane di armi sono aumentate nel 2003 di quasi del 40%. Questo penso che sia un dato molto significativo per concentrare l'attenzione su quelle che sono state poi le politiche reali dei governi italiano e di tutti i governi europei rispetto al tema della sicurezza. Tante dichiarazioni di principio, però proprio su un tema che dovrebbe essere centrale per la prevenzione del conflitto, per la prevenzione dei conflitti e per porre un freno al terrorismo, cioè il commercio di armi e dei controlli adeguati e rigorosi sui destinatari di queste armi, non si sono fatti passi concreti in avanti. E infine è importante dire che si sta globalizzando l'industria delle armi, che negli ultimi anni sono cresciute le coproduzioni, in particolare proprio da paesi europei. E per le armi coprodotte insieme tra paesi europei vi è il rischio che ci siano minori controlli ed è per questo che chiediamo a gran voce, l'abbiamo chiesto come dicevo proprio la scorsa settimana, che a livello internazionale, regionale, europeo in particolare, si rafforzino i controlli attraverso degli strumenti vincolanti e obbligatori. Bisogna ricordare, proprio in riferimento al conflitto in Iraq, che gli Stati europei sono stati tra i principali responsabili prima dell'embargo del 90 e addirittura dopo l'embargo all'Iraq del 1990, quindi dopo il primo conflitto iracheno, sono stati tra i maggiori responsabili delle esportazioni di armi proprio all'Iraq. Ricordiamo le tante esportazioni, ad esempio di mine antiuomo italiane finite in Iraq, ma i casi sono davvero tanti, sono tanti paesi dell'Africa ad esempio, dove arrivano armi di fabbricazione europea, vanno appunto dall'Africa occidentale, quindi a quelle regioni dalla Sierra Leone alla Liberia che sono stati investiti una grave crisi umanitaria, alla regione dei Grandi Laghi, al Sudan, a tanti altri paesi, ma anche nelle regioni del Medio Oriente, così come in India e Pakistan, sono importanti le esportazioni di armi europee. I casi sono purtroppo davvero tanti e sono tanti i casi in cui queste armi vengono concretamente utilizzate per compiere violazioni dei diritti umani, per conflitti tra stati e in tanti altri casi in cui secondo noi non dovrebbero essere autorizzati dalle esportazioni. Avete in progetto una campagna, degli eventi rispetto a questo argomento? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che Amnesty International partecipa insieme a tante altre organizzazioni e associazioni italiane, alla rete italiana sul disarmo, contro l'armi e soprattutto alla campagna mondiale contro l'arms che si propone per il 2006 di porre agli stati con attenzione durante la conferenza sulle armi leggere che si terrà alle Nazioni Unite la priorità di un trattato mondiale, quindi un trattato internazionale che regoli i trasferimenti di armi. Sia in Italia, sia in Europa, ma in tutto il mondo, in oltre 100 paesi, sono attive campagne di Amnesty e di altre organizzazioni internazionali e nazionali che chiedono maggiori controlli e in particolare maggiori controlli a livello internazionale. Quindi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, anche in Italia ci saranno dei momenti di mobilitazione, delle campagne per chiedere maggiori controlli.